Ciao, sono Max Angioni, sono qui a Torino a fare i miei spettacoli, ma parlano tutti del Giro d'Italia, quindi mi tocca lasciare spazio a questa puntata di Gironimo. E vabbè, è andata così. Signora, lei ha rubato la bottiglia del vincitore, No, la stanno inseguendo? me l'hanno regalata, sono davvero felice, è stata davvero un'esperienza entusiasmante perché tutta l'Italia è con noi. Ma com'è successo? Ricostruiamo la dinamica di questo passaggio, cos'è successo? Lei passava di lì per No, caso non o è venuta a passavo, vedere il Giro no, non d'Italia? passavo, continuavo a guardare il campione e dopodiché passava gente e ho visto che c'era la bottiglia, gli ho chiesto di darmela, me l'ha data. Che gentile. Sì, molto, sì. Lei come si chiama, signora? Rita, Rita, sì. da Torino. Torino, sì. Appassionata di ciclismo. No, appassionata delle gioie che tutti assieme possiamo provare. Appassionata di bottiglie, quindi. Beh, sicuramente un bel ricordo Ce di n'è questo poco momento. anche per Sì, stasera. è molto Si pesante. sgaserà, deve fare tanta strada. Non tantissima, ma comunque è molto pesante. Sono molto contenta. Bene, buon brindisi Davvero. allora questa Grazie, sera. cin cin. Con la birra lo faccio il cin cin. Cin Cin, all'Italia. Grazie, arrivederci, grazie. benissimo. Amiche e amici del ciclismo del Giro d'Italia, delle Venarie, dei Torini, della Milano-Torino, del Vermouth e di tutti i cocktail che volete, benvenuti alla nuova puntata di Gironimo, la puntata tecnicamente numero uno, anche se ieri ne abbiamo fatta un'altra, abbiamo già perso il conto. Introdotti dalla voce di Max Angioni, che ringraziamo, che è a Torino anche lui questa sera con il suo spettacolo al Teatro Alfieri, anche meno si chiama lo spettacolo, e dalla voce della signora Rita, che avete sentito aver fatto un colpaccio e già me la vedo lì che si sta scolando questa bella bottiglia di spumante dalla qualità assai discutibile. Siamo nella stanza 212 dell'Hotel Galant di Venaria Reale. E con me, pronto a correggermi subito, c'è Leonardo Piccione. Mi sono trattenuto, buonasera, ciao. Ciao a tutti, buonasera, ci sono anch'io. Ma secondo giorno intervieni già senza essere presentata. Sta prendendo confidenza la nostra Marta. Sta prendendo confidenza, ma soprattutto con noi c'è l'uomo che è stato invocato per tutto il pomeriggio. Si passava con il furgone, si passava tra la folla e tutti gridavano questo nome, o meglio una versione abbreviata, ma noi ve lo diamo per intero, perché qui al mio fianco c'è Michele Florindo Callisto, Wouter Lambertus Martinus Enricus Pelacci, come mi è stato segnalato. Per gli amici Michele. Per gli amici Michele, questi nomi sono i nomi di Wout Poels, che non partecipa a questo Giro No, d'Italia. Florindo non è un nome di Poels. No, Florindo e Callisto sono suoi, di Michele. Gli altri sono di Anche Poels. Michele ce l'ha detto l'altro ieri, per cui magari Wout Poels si chiama anche Florindus, Umbertus, con tutte queste altre cose che abbiamo scoperto grazie a Franz. Grazie a Franz. Va bene, io direi. Intanto mi hanno preparato una cosina, adesso la facciamo. Un acrostico. Sapete cos'è l'acrostico? Michele, sai cos'è un acrostico? Non ho la più pallida idea. Ok, non sei. Tu lo sai, Marta? Non è un concerto, stai tranquillo, Pelacci. No, non sei nemmeno un lettore, un consumatore di Settimana Enigmistica. Vabbè, è un gioco. L'iniziale, le lettere che compongono una parola diventano iniziali di una frase, di una parola che compone una frase. Io ho scelto Torino perché oggi la tappa arrivava da Torino e ho scritto, prima di cominciare questa registrazione, T come torniamo oggi ricercando insieme nuovi orizzonti. Un applauso. No, no, no, era giusto un modo. Uno solo, basta, Ok. basta. Va bene, comunque siamo Un po' tornati. tipo quelli del tennis. Siamo tornati e a Torino c'è stata la prima maglia rosa, è stata assegnata la prima maglia rosa di questo giro, è andata a Jonathan Narváez della Ineos, ma non svelo altro perché è arrivato per la prima volta in questa edizione il momento di ascoltare la sintesi della prima tappa del Giro d'Italia ad opera del nostro Michele Florindo Callisto. Callisto Pelacci. Prego. Beh, il riassunto sarebbe che gasamento, però andando un po' oltre. Prima tappa del Giro d'Italia, corta ma esplosiva, veloce e sorprendente. La fuga a 6 è composta da tre francesi. Eccomi, eccomi. Barré de Beaumarchais e soprattutto Lilian Calmejean, che ha saputo che non l'abbiamo citato ieri nell'angolo dei francesi e ha deciso di prendere la blu esattamente come Pinot. La blu è la maglia azzurra, ok, per Le Le Bleu, sì. Allora, maglia azzurra perché è quella dell'Intergiro. Ed effettivamente Calmejan ha vinto l'Intertappa e quindi è in testa all'Intergiro. Inter Calmejan, poi c'era anche in fuga Gabriel Zabie, Pietro Bon e Fiorelli. Kautz mi sta facendo diciamo vigorosi gesti di tenere il microfono bello davanti a me, perché sennò la mia voce è più bassa di quella degli altri. Il nocciolo del discorso però arriva dalla salita della Maddalena in poi, quando la UAE di Pogacar fa il ritmo e il gruppo inizia a perdere i pezzi. Vari corridori si avvantaggiano sul grosso prima dell'attacco di San Vito, ma è Nicola Conci l'ultimo a venire ripreso da Pogacar, e i pochissimi che riescono a stargli ruota sono Narváez e Schachmann, che incredibilmente lo battono lungo il Po. Tappa e maglia chiaramente a Narváez, Schachmann secondo, Pogacar bronzo. Sì, soltanto terzo Tadej Pogacar, dopo aver fatto lavorare a lungo la sua squadra e consumato alcuni dei suoi uomini, almeno parzialmente per oggi, e quindi questo è un po' il grande tema di questa tappa, e introduciamo la parte di commento alla tappa del Giro con una rubrica, la prima delle tante rubriche che Marta da oggi comincerà a curare per noi. Cominciamo a capire davvero perché sei a questo Giro d'Italia. È una rubrica che si chiama, aiutami, Giromanzia. Giromanzia, ed è una cosa molto particolare, perché cosa fai con questa rubrica? Allora, con questa rubrica, io, figlia di Cloris Broska negli anni che furono... È vero che le assomigli anche un pochino. No, adesso, calma, questo non credo che sia un complimento, ma comunque... No? Dicevamo, mi occuperò di tarocchi, ma di tarocchi all'indietro. Ovviamente li utilizzeremo, come spesso è, come uno strumento di riflessione e di analisi, quindi nell'accezione jodorowskiana del termine dei tarocchi, per parlare di quello che è successo. Quindi ogni giorno avremo una carta che ci spiega, uno degli arcani, se ho capito maggiori, bene, che ci spiega a posteriori quello che è successo nella corsa. Esatto, che ci darà l'occasione per riflettere e parlarne insieme. Qual è quello di oggi? La carta e il tema? Quello di oggi è una, in realtà, delle carte dei 22 arcani maggiori, è una delle più temute, ovvero la torre, che ha in realtà appunto questo significato. Se la troviamo non capovolta, ma appunto se esce dritta, a noi è uscita dritta, ha un significato molto, può essere spaventosa, ma in realtà dà degli spunti importanti, perché ci parla di avvenimenti imprevisti e imprevedibili. Oggi ce ne sono stati diversi: abbiamo una maglia rosa che appunto non avevamo previsto, abbiamo un Calmejean che ha resistito più di quello che pensavamo, abbiamo un Conci in grande spolvero, e quindi questi eventi imprevisti. Però ci dice anche un'altra cosa la torre, ci parla anche di può rappresentare la superbia punita. È una carta in questo caso sfavorevole, che dice quindi hai avuto presunzione, hai avuto superbia, e quindi ora accetti quindi questa instabilità, questo capovolgimento repentino e questa punizione. Ok, quindi con questo ci suggerisci che, se vogliamo, l'esito di questa tappa con Narváez che ha battuto Schachmann e soprattutto Pogacar allo sprint, e che il campione sloveno è stato un po' punito, secondo te, o comunque è un tema di questa tappa per il modo così plateale con cui ha, come dire, cercato di già indirizzare il giro verso le proprie sorti oggi, facendo lavorare la squadra sul Colle della Maddalena e rimanendo soprattutto da solo con Maika nel momento poi chiave della corsa. È un punto di vista interessante. Esatto. Avevamo riflettuto sul fatto che fosse, quindi doveva andare in rosa per forza, invece no, però può essere liberazione. Questo è una liberazione dalla pressione. Ed è una liberazione, anche un senso di liberazione per tutti noi tifosi di Gianni Bugno. L'ha scritto anche il nostro amico Yuka nel gruppo Telegram, perché anche quest'anno non avremo, a meno che Narváez non faccia l'impresa, non dovremmo avere un corridore che tiene la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa del Giro d'Italia. Sì, quindi in un certo senso il primo obiettivo di Pogacar in questo Giro d'Italia è sfumato, se era un suo obiettivo tenere la maglia rosa dal primo all'ultimo giorno. Ha lasciato su strada qualche piccola energia, perché poi ha dovuto lavorare in prima persona per andare a chiudere su Nicola Conci, che a un certo punto aveva acquisito anche un bel vantaggio, e lui ha dovuto lavorare perché Schachmann e Narváez ovviamente non collaboravano nella rincorsa, nell'inseguimento a Conci, e ha mostrato, come abbiamo già detto, anche qualche fragilità della sua squadra, che appunto si è totalmente consumata nel tentativo di rendere la corsa dura sul Colle della Maddalena. L'obiettivo che ha ottenuto Pogačar è far perdere alcuni secondi a Bardet, fondamentalmente. Non so se Bardet fosse un avversario così temibile da metterlo in difficoltà già oggi. Quello che ha dimostrato è che comunque con quel suo scatto poi sul San Vito, con quel suo ballo di San Vito, è in forma, ecco, ha tagliato la concorrenza con un grissino, si può dire. Comunque Leonardo, non ti preoccupare, perché su Strava il nostro Taddeo ha già detto che... Dillo tu. Ha scritto questo più o meno: farò su di loro più o meno. Senti questo, è famoso questo passo: farò su di loro terribili vendette con castighi furiosi, e sapranno che io sono il loro signore quando eseguirò su di loro la vendetta. È Ezechiele 25:17. Ha scritto questa cosa qua sul serio? Ha scritto questo? No. Ha scritto letteralmente: abbiamo rotto il ghiaccio oggi, domani comincia la vera partita. Sì, e probabilmente sarà così, nel senso oggi queste considerazioni andranno completamente riviste, perché c'è una salita più lunga e più impegnativa di quelle di oggi, e Pogačar ci dimostrerà che è il grande favorito di questo giro, era e continuerà a esserlo. E lui è così, insomma, ha corso come corre lui, senza fare troppi calcoli. Se ha sprecato delle energie, se ha perso dei compagni prima della fase decisiva della corsa, pazienza, lui si è divertito e ci ha fatti divertire anche oggi. Ci ha fatto divertire Tadej Pogačar, ci hanno fatto divertire ancora di più i tanti fuggitivi che abbiamo citato nella giornata di oggi. È stata una giornata abbastanza di gloria per i fuggitivi, direi, che poi magari il risultato, non abbiamo visto la grande fuga che arriva al traguardo, però abbiamo visto tanti fuggitivi animare la corsa in maniera anche concreta, quasi, insomma, a un certo punto sembrava che potesse arrivare quell'azione con dentro Caruso, Schachmann, eccetera eccetera. Motore e superstar di questa azione, perché è stato l'ultimo a essere ripreso, è stato Nicola Conci, che in grande condizione ci ha provato anche oggi, e al traguardo lo abbiamo avvicinato per sentire cosa, com'era andata questa giornata. Ero partito, sapevo di star benissimo. Ieri ho fatto un paio di lavoretti cosiddetti openers, e in certi momenti mi domandavo se funzionasse il power meter, perché veramente stavo bene. Oggi ero anche molto nervoso e un po' lo sentivo nelle gambe, però poi ho visto il momento, stavo bene, ho capito un po', era un buon momento e sono andato. E fino alla metà della salita finale ci ho creduto abbastanza, non nascondo che un pochino il sogno l'ho cullato. Poi vabbè, mi sono girato, ho visto una sagoma bianca a strisce dai colori della Slovenia e ho detto aia, niente, sono comunque contento della prestazione. Certo, un po' di rammarico perché sono sostanzialmente esploso gli ultimi centinaia di metri di salita, e se non avessi fatto un fuorigiro così, per poco magari sei riuscito a rimanere con i primi tre, anche se dubito poi avrei avuto le gambe per fare una buona volata. Ma la sensazione di quando arriva quella sagoma bianca di cui parlavi prima, perché tanto nelle prossime tre settimane la vivranno in tanti, per cui magari puoi anche dargli un consiglio. Ma sinceramente non è che fossi tanto sorpreso, ho sentito che avevo 20 secondi al gruppetto e 25 dal gruppo dietro. Fino a poco prima della salita avevamo un bel gap rispetto al gruppo, quindi ho immaginato che avessero un pochino aperto il gas dietro, e quindi niente, se c'era un corridore che mi aspettavo di vedere per prima era lui. Grazie mille, complimenti. E allora, poca la sorpresa di Nicola Conci nel vedersi, come si dice, sverniciato da Pogačar a un certo punto, maggiore sorpresa nell'esito della tappa, come abbiamo già detto, ma non abbiamo invece detto e declamato l'ordine d'arrivo di questa prima tappa. Lo facciamo adesso: ha vinto Jonathan Narváez, secondo è arrivato Maximilian Schachmann della Bora e terzo Tadej Pogačar. Quarto è Alex Bodin della Decathlon. L'avevamo detto. L'avevamo detto che era un nome da tenere d'occhio. 6 secondi dal trio che si è giocato la vittoria. Quinto Nicola Conci a 10. E in questo gruppo a 10 secondi con Conci sono arrivati anche Hermans, sesto, Van Sevenan, settimo, Tiberi, ottavo, Attila Walter o Walter Attila, nono, Geraint Thomas, decimo. E altri corridori, tra cui Ganna, Caruso, Dani Martinez, il capitano della Bora, Uide Brooks, mi fermerei qua, della Visma, Dambar. Cioè, comunque no, però no, andiamo avanti. Lo scopriremo vivendo. C'era Ben O'Connor in questo gruppo, c'era Giulio Pellizzari. Chi non c'era in questo gruppo a 10 secondi da Pogacar è Romain Bardet. Romain Bardet che è arrivato invece a 57 secondi dal trio insieme a Nairo Quintana e Domenico Pozzovivo, che è stato suo malgrado protagonista di una caduta, è scivolato, ha recuperato sul gruppo dei migliori, però poi nel finale della tappa ha ceduto quasi un minuto a Pogacar. La classifica generale è la stessa, tranne un Caruso che in virtù dei 3 secondi guadagnati al traguardo volante è quinto in classifica generale a 17 secondi da Narváez e a 11 da Pogacar. Tappa e maglia a Jonathan Narváez. Marta e Michele hanno ascoltato la sua conferenza stampa e si sono segnati alcuni punti interessanti. Innanzitutto, felicidades Jonathan, e lo salutiamo. Abbiamo ricevuto numerosi contributi dall'Ecuador, anche dalla mia amica Andreina. Allora, Narváez, che è stato super carino, gli abbiamo chiesto prima di tutto una cosa importante. Gli abbiamo detto che il rosa gli sta benissimo, ma che anche a Filippo Ganna non stava niente male la sua maglia di campione dell'Ecuador, che l'abbiamo visto provare sui social ieri. Quindi gli abbiamo chiesto se gli ha portato fortuna, se lo sapeva, e lui ci ha detto che è super amico di Pippo Ganna, che sono in stanza assieme, che parlano un sacco e che si erano detti, appunto, gli aveva detto domani ti starò vicino, eccetera eccetera. Invece poi Pogacar ha attaccato e lui gli è andato dietro. La cosa che voglio aggiungere io, ha fatto un po' ridere, è il fatto che gli hanno chiesto: ma quando eri in salita che ti vedevamo dietro Pogacar, no? Fiancheggiare con le spalle, darci dentro, insomma, si vedeva che era al limite. Gli hanno chiesto: ma hai visto che potenza esprimevi sul tuo ciclo computer? Lui ha detto: no, non sono riuscito neanche a guardare, tanto mi stavo sforzando, tanto ero al limite appunto delle forze mentali, non ha visto neanche cosa faceva di velocità. Sì, chissà se abbiamo scoperto Narváez è compagno di stanza di Ganna, chissà se in questa sua impresa ha seguito lo storico consiglio che a Ganna fu dato da Salvatore Puccio e che Marta adesso ci ricorderà. Ti ricordi? Michele se lo ricorda, prego. Mangia, bevi, stai calmo, okay. E non strappare. Oggi forse potrebbe aver seguito anche lui questa massima intramontabile. Ma poi mi togliete questo dubbio: hanno dato effettivamente la collana di Ka a Jonathan Narváez? Il Museo Egizio di Torino aveva promesso di consegnare alla prima maglia rosa di questo giro la collana dell'architetto dei faraoni egiziani. Assolutamente sì, gli è stata consegnata incorniciata. Ma come è incorniciata? Cioè, nessuno gliel'ha messa al collo. No, nessuno gliel'ha messa al collo, anche se gli hanno chiesto a chi l'avrebbe data. Se... E lui ovviamente ha detto che a casa in Ecuador c'è sua moglie con il suo bimbo Lucas, e che siccome un po' sua moglie aveva subodorato che questa tappa poteva dire qualcosa, ovviamente aveva preso tutto il kit e adesso il suo Lucas è vestito in rosa a casa. Bene, bene. Tra l'altro questa collana sapete che è ancora dentro il sarcofago, cioè non è stato mai sbendato. Adesso c'era Narváez. Adesso c'era lui, no. È stata scoperta attraverso una tacca. Hanno fatto la tac alla mummia e hanno scoperto che c'è una collana che però non è stata mai tirata fuori. Io volevo segnalare che grazie a questa vittoria, probabilmente, Jonathan Narváez è diventato la prima risposta su Google quando cerchi Jonathan Narváez. Perché non è più come era quando vinse la sua prima tappa al Giro d'Italia, era il cantante Jonathan Narváez, Canciones all'Espíritu Santo. Adesso è diventato il ciclista, però comunque non si arrende Jonathan, il cantante, perché stasera, anzi ieri mi sa, questo è un aggiornamento da un social, c'erano dei nuovi canti su YouTube con Jonathan Narváez e ieri ci si allenava cantando un canto di Tese intitolato De Noche Iremos. Non so se ha portato bene questa preghiera al suo omonimo. Comunque la sfida, quella per cui tutti siamo qui, che è chi risulta primo su YouTube tra Jonathan Narváez, in questo momento è dominata dal ciclista. Ma a me invece risulta, se googolo Jonathan Narváez, viene fuori Luca Pedalini. È un errore o è corretto? Luca Pedalini, quello della canzone del Bincio che ieri vi abbiamo fatto ascoltare. Credo che stia pian piano scalando le graduatorie di YouTube e quindi adesso forse anche lui ha una sfida con il cantante Jonathan Narváez. Non so se anche con il ciclista. ciclista peraltro che io ho pronosticato vincitore ai 20 dell'arrivo. Pelacci mi è testimone. Sì, è stata un'apparizione veramente incredibile. Narvaez primo, perché Filippo Kautz lo sapeva, ha agitato il pendolino e ha visto. Incredibile, non so come altro spiegarmi questa cosa. Come facevi a saperlo? Sicuramente stai citando pagine di televisione che non hai mai visto. Non so come tu possa averla ritrovata questa. Uno dei miei primi ricordi legati al calcio è un piatto di cappelletti domenica sulle due e Maurizio Mosca, giuro, avevo tipo 6-7 anni, però ho fatto in tempo a vedere l'ultimissimo Maurizio Mosca. Va bene, torneremo al calcio in questa puntata, adesso restiamo sui cantanti, sì, restiamo religiosi sui sudamericani. Cantanti. No, non si parla no, di... No, io in scaletta vedo altri di classifica, ma secondo me... Ah no, era per dire che Lipovic, che avevo pronosticato vincitore della tappa di oggi, ha perso 2 minuti. Cioè tu per parlare di Lipovic ti sei segnato in scaletta altri di classifica. Per parlare di un mio errore, cioè io sono criticando o contestando e vengo anche criticato per questo. Sì, il mio Valentin Perepentre ha preso 8 minuti, anche per cui... il tuo Valentin Perepentre sì, è andato bene, insomma. Rulvans in Martensdeck, ecco, ne ha presi 12 se non sbaglio. Comunque tutte queste cose la Torre le aveva dette. La Torre ci ha spiegato tante cose di questa tappa, non ci ha spiegato una cosa. Marta, oggi sei protagonista più del solito, anche perché non c'è un solito esatto. In questo podcast, e perché c'è un'altra rubrica che fa capo a te in questo la Giro d'Italia. La mia missione. La tua vera missione in questo Giro d'Italia, una delle missioni, è scoprire ogni giorno, o quando potrai, adesso non facciamo promesse che non sappiamo mantenere o possiamo mantenere, qualcosa che non conosciamo su Tadej Pogačar. Mi avete sfidato e io questo Pogačario l'ho preso sul serio. Si chiama Pogačario. Si chiama Pogačario, questo almanacco, io sono pronta, okay. E troverò un sacco di scoop. Oggi ne ho già uno. Prego, allora ascoltiamo il primo scoop su Tadej Pogačar che non conosciamo. Vediamo se è così potente come lo scoop che abbiamo fatto ieri su Fausto Coppi, per cui... Questo è molto potente perché va particolarmente nel mio raggio d'azione, nel mio campo, il campo delle gattare potenti, quindi tutti avete visto, ha creato grande pettegolezzo e grande fermento sul web, un bel gattone, non saprei dirvi la razza, comunque a pelo lungo, che si intratteneva col nostro amato Taddeo e con Urska. Io ho scoperto che non è il loro gatto. Ah, e no? Che Doma non è il nome del gatto, ma è ovviamente casa. Quindi quelle erano a casa e stavano, insomma, erano... Quel gatto vuol dire casa, sapete perché? Perché è il gatto dei vicini. Ah, non è il loro gatto, ma è il gatto dei vicini. No, perché non potrebbero mai, con le vite che fanno, ad avere un animale, ma lo amano. Non sanno di preciso di che vicino sia, ma ogni volta che loro tornano a casa, il gatto arriva. Si intrufola e li va a trovare, li va a salutare, quindi lo hanno un po' adottato in qualche modo. E questo è il tuo scoop di oggi su Tadej Pogačar? E ti pare poco? Non so. No, non ho detto niente, io ho segnalato che questo è lo scoop di oggi di Marta. Poi a fine giro faremo le nostre valutazioni e capiremo se avrà avuto senso portarti qui a questo Giro d'Italia. Piccione richiamato all'ordine sui gatti. Eh? Da Marta richiamato all'ordine. Ah sì, no, certo. No, ma visto che a questo punto poi abbiamo comunque parlato... certo che ha senso portarla qui con noi a questo Giro d'Italia. Quello su cui non abbiamo ancora capito il motivo è Florindo Callisto della Vega, Hernandez, Gutierrez. Ma ce l'ha anche lui lo scoop felino, Ce l'ha anche lui lo scoop felino, perché anche... Felino è una località in provincia di Parma dove si fanno i salumi e sappiamo sempre che c'è quella gag salumi di Felino che lascia sempre un po' basiti, ma stiamo sempre sul Giro d'Italia. Stiamo sempre sui gatti, perché stamattina, giusto, Michele. Posso salutare i miei gatti già che ci siamo? Prego. E ciao Cicchi. Ma loro fanno partire il podcast ogni sera. Loro fanno partire il podcast, saluto Oscar e Rube, siete bellissimi. Perché ha circolato stamattina una foto di Ben O'Connor, capitano della Decathlon, alle prese con un micio a bordo strada e ovviamente non potevamo, cioè potevamo farci sfuggire questa cosa, ma Michele non l'ha fatto. Stamattina ha chiesto al diretto interessato, a Ben O'Connor, di raccontarci un po' di più di questa storia di lui col gatto a bordo strada. Ben, hi, thank you for your time. Real quick, we saw you with a cat yesterday. What happened? Oh no, I was just literally just changing bikes. There's a nice cute little kitten just on top of the climb and yeah, I have a cat at home and it was just cute to see his little kitten. I think everyone would do the same and want to say hello. Do you have a cat at home or a pet in general? Yeah, I have a cat. So, yeah, I guess I'm a cat person now. And what's its name? Nala, funnily enough. Kind of a Flying King, but anyway, she's an angel. Would you consider the official nickname for Ben O'Connor for this Giro d'Italia, the Cat Whisperer? No, but I do see a lot of animals in general, so I don't know, animal watcher perhaps, but yeah. Thanks a lot, mate. No, thank you. Gli chiedo, Ben, ti abbiamo visto con un gattino in una foto di ieri, che è successo? E lui risponde, stavo cambiando bicicletta in cima alla salita e c'era lì un grazioso gattino. Ho anch'io un gattino a casa e penso che tutti avrebbero fatto lo stesso. Sono una specie di gattaro. Gli ho chiesto quindi come si chiama il suo gattino in Australia e mi ha risposto Nala, come un personaggio del Re Leone. Un nome abbastanza banale, ma lei è un angioletto. Infine gli ho chiesto se il suo soprannome ufficiale in questo giro potrebbe essere The Cat Whisperer, ovvero l'uomo che sussurra i gatti, più o meno. E lui ci pensa un po' e risponde di no. Ma vedo sempre molti animali, in generale, quindi forse è meglio Animal Watcher. Quindi è ufficiale il soprannome di Ben O'Connor. In questo Giro d'Italia è colui che guarda gli animali. E quindi abbiamo un altro scoop anche in questa puntata. Ufficiale? Chi l'ha reso ufficiale? Che beh, Michele Umbertus della Vega. E quando è Michele che mette il sigillo, è così. Abbiamo altre cose sui gatti? Questo ormai è un podcast sui gatti? Beh, a questo punto direi proprio di sì. Mi avete sfidato e visto che Kautz saluta i suoi gatti, non vorrei iniziare io perché con tutta la colonia stiamo qua fino a domani. Puoi sceglierne uno, gli altri nelle prossime puntate. Va bene, allora ciao Fiona, Graffiona. Fiona sta per Graffiono. Ciao Fiona, ti saluto anch'io. Tornando agli incontri di questa mattina, ma anche ai fuggitivi e ai protagonisti della tappa odierna, apriamo una nuova rubrica. Oggi è la prima tappa e si aprono mille rubriche. Una delle altre rubriche che si inseriscono nel programma di questo Giro d'Italia è dedicata agli esordienti ed è una sorta di test d'ingresso che la nostra redazione ha elaborato, la nostra commissione ha elaborato fino a tarda notte ieri sera. Non ho capito perché ci siamo così, abbiamo fatto l'una a pensare a queste domande che a breve sentirete e capirete quanto sono ricercatissime. Comunque, questa mattina abbiamo incontrato Giulio Pellizzari, corridore molto atteso in futuro. Ma anche oggi è stato molto bravo. Oggi è stato un grande protagonista, solo 20 anni, corridore della VF Group, che è quella che noi chiamiamo la Bardiani. E abbiamo fatto due chiacchiere con lui e l'abbiamo sottoposto al test ingresso del Giro d'Italia e sentite com'è andato. Giulio Pellizzari, un altro esordiente di questo Giro d'Italia, un altro che è appena arrivato al suo primo foglio firme, com'è andata? Bene, emozionante, non ho mai visto così tanta gente, credo, quindi una bella emozione. Sai che un sacco di gente parla di te alla vigilia di questo Giro d'Italia, ti fischiano le orecchie? Ma no, sinceramente no, dormo bene, tranquillo, sono tranquillo, dai. Hai anche un sacco di compagni di avventure di questi anni nelle categorie giovanili che ti salutano, passano, c'è un piccolo sottogruppo della vostra annata? Ma diciamo che siamo una squadra di amici prima che avversari, quindi è sempre bello ritrovarli alle gare. Chi è il più forte della tua generazione? Tutti. No, che risposta è, dai? Dire, dai, tutti. Sei tu che ci pedali contro? Tutti, siamo una generazione forte. Tu hai 20 anni? Qua a un metro da te c'è un ragazzo non esattamente coetaneo. Come va con Domenico? Va bene, dai, ci racconta tanti aneddoti e ci insegna tanto ogni volta che parla, quindi siamo felici di averlo con noi. Qual è il segreto che gli stai cercando di estorcere in questo giro? Tutti quelli che tira fuori lui li prendiamo. Con chi sei in stanza? Zanoncello. Velocista più forte al mondo. Velocista più forte al mondo, sì. questo lo sapevo. Ecco. Senti, se hai 2 minuti ti faccio anche a te quello che è il test d'ingresso, il test d'ingresso che stiamo facendo. Chi lo massaggia? Mi rendo Gianluca. Ma massaggia bene? Sì. Allora, lasciamo da parte le cose serie e ti faccio 10 domande per vedere se passi il test d'ingresso, sì, al Giro d'Italia. Completa la frase, hai voluto la bicicletta e adesso? Pedala. Che cosa vuol dire indossare la maglia nera? Essere l'ultimo in classifica. Quale di questi ingredienti non va nel pesto genovese? Aglio, prezzemolo o pinoli? Nessuno, ci vanno tutti. Niente, questa l'hai sbagliata anche tu. No, oh, bastardo! Ah, ti suggeriscono falso, vai. Non ascoltarli. Chi ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno? Angelina Mango. In che regione italiana si trova il Monte Grappa? Veneto. Dobbiamo farle più difficili queste domande, Marta. Quanto tempo deve passare prima di fare il bagno dopo aver mangiato? Tre ore. Tre ore. Nelle Marche si mangia più pesante. Quale storica classifica è tornata quest'anno al Giro? Intergiro. Chi canta Sarà perché ti amo? Ricchi e poveri. Il telecronista del Giro sulla Rai quest'anno? Cassani. Il telecronista? Di Luca? No. Mancani. Mancani. Mancani. Quasi ci siamo arrivati. Come si chiama il Presidente della Repubblica? Mattarella, dai. Bravissimo. Allora hai diritto alla domanda bonus. Qual è la serie TV più longeva della televisione italiana? Ah, non lo so. Non lo so. Parane italiana, non americana, straniera. Italiana. Ma non lo so. Non la seguo la TV. Ciao. Mio Dio, bravo ragazzo, ma è inaccettabile non sapere cose sul pesto e soprattutto non amarlo. Squalificato. Va detto che è stato molto aiutato da massaggiatori e meccanici della squadra, secondo me che non l'hanno proprio aiutato al 100%, come si sarà capito, però forse questa è un'altra sfida che parte in questo test di ammissione, che anche riguarda in un qualche modo anche gli aiutanti o disturbanti. Detto di questa, che era una nuova rubrica di questo podcast, passiamo a una nuova rubrica di questo podcast. Questa è la quarta o quinta che introduciamo oggi, ho perso il conto. Non mi ricordo qual è il record di nuove rubriche lanciate in una sola puntata. Potremmo provare a batterlo, qui però diventiamo un attimo seri, abbiamo fatto tanti scoop, adesso facciamo gli scoop che contano. Perché cioè? Fin qui abbiamo scoperto, diciamoci Bogaccia, chiaro, abbiamo scherzato, gatto, abbiamo scherzato. Test di ammissione. Abbiamo scherzato perché ci sono delle cose che non tornano in questo Giro d'Italia. No, cosa non torna? Sentiamolo. Il Giro d'Italia è una corsa molto affascinante. Ciclisti affascinanti corrono in Italia su strade affascinanti, su mezzi affascinanti, chiamati comunemente biciclette. Ma come mai nessuno ci parla mai delle inquietanti verità del Giro? Chi le nasconde? E chi le nasconde? A chi le sta nascondendo? Come mai nessuno ci ha mai parlato dell'inquietante presenza degli alberi sul ciglio delle strade? È un caso che nei primi 127 chilometri di ogni tappa ci sia sempre almeno un albero sul ciglio della strada? Chi l'ha messo lì? È forse un messaggio? Un indizio? Vogliono farci forse credere che sia un caso? Ma è forse un caso che l'albero sia un famoso simbolo presente in molti testi sacri? È forse un caso che molti templari hanno frequentato degli alberi? È forse un caso che anche Nostradamus mangiasse dei frutti provenienti, guarda caso, da alberi? Le nostre indagini ci hanno condotto a Maria Piovanella. È un nome di fantasia per tutelare la sua identità, perché Maria Piovanella è una testimone. Maria Piovanella, quest'anno una tappa del Giro d'Italia passerà vicino a casa sua. Così mi hanno detto. E senta, lei in giardino ha per caso un albero? Più di uno. E che tipi di alberi ha? E senta, chi ha piantato quegli alberi? Ma a dir tutta la verità, quando ho comprato la casa erano già lì. Inquietanti parole quelle di Maria Piovanella, che nascondono inquietanti verità. E adesso che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, per voi il Giro d'Italia non sarà più lo stesso. Non so voi, meno male che siamo nella mia stanza, ma io mi sto letteralmente cacando sotto a questo punto. Io ho sentito dire che persino Lucarelli ha un brividino lungo la schiena. Carlo Lucarelli, vero? No, Cristiano, noto attaccante. Ok, andiamo avanti. Sarà un caso questa omonimia? No, non lo sappiamo. No, io direi... No, non io aprirei direi... nuovi fronti di indagine, comunque. No, nonostante ci fossero diversi alberi lungo il percorso della tappa di oggi, siamo riusciti anche a fare degli incontri non inquietanti, anzi piacevoli e costruttivi, corroboranti, come descriverli? Assolutamente, tonificanti e sorprendenti, soprattutto perché, se vi ricorderete, chi ci ha seguito negli ultimi anni, avevamo una rubrica sui libri molto importante, su libri riguardanti il ciclismo, e purtroppo noi personalmente non abbiamo mai avuto l'occasione di incontrare davvero gli autori. Oggi il caso ce l'ha messo davanti. Sono sicura che fosse uno di loro. Tu hai fatto 10.000 km sulla cicletta. La cicletta, ho scritto un libro. Hai avuto la cicletta, adesso pedala. Hai avuto la cicletta? La cicletta, ce l'ho in casa, davanti alla TV, mentre pedalo. Io vedo i chilometri che fanno loro, io ne faccio metà di loro mentre pedalo. Perché sono mica pochi. Ma vanno massimo a 30. Faccio quel che posso. Quindi, cosa c'è in questo libro? Hai voluto la cicletta e adesso pedala? Cioè, virtualmente ho fatto 10.000 km. Ho fatto percorso fino a Venezia, percorso fino a Roma, percorso fino a Firenze, e man mano che camminavo vedevo le città e dicevo quello che avevo visto, e così la gente, leggendo, si fa un ripasso di storia e geografia. Cioè, è una guida turistica di luoghi in cui tu non sei stato perché eri sulla cicletta. No, non sono stato, è virtuale. Però a quel punto vuoi fare anche le Hawaii, non lo so. No, adesso volevo fare il Giro d'Italia, però siccome è spezzettata da una parte all'altra, non è che posso riuscire a fare tutto il giro. Però ti chiami? Io Germano Gravina di Cuneo, nato a Pescara. Fantastico, Germano Gravina, non vedo l'ora. Mi sono perso questo incontro, grazie per averlo documentato in questo modo. Eri impegnato in altri ruoli, no? Comunque era veramente un appassionato che aveva voglia di raccontarci di questo libro, che comunque ci ha detto che non è in vendita. L'ha fatto così un po' per farlo circolare tra i suoi contatti. Mi spiace, perché io l'avrei letto volentieri. D'altronde è stata una giornata ricca di incontri letterari, questa al Giro d'Italia, anche perché al traguardo c'era lui. È apparso l'immarcescibile. Io non vedevo l'ora di conoscerlo con quella sua voce barricata. Sì, c'era Gino Cervi oggi al traguardo della prima tappa del Giro d'Italia. Lo abbiamo incontrato, Gino era in vacanza, poi ce lo dirà in questa breve intervista. Ma io vi segnalo che Gino con quest'oggi ha fatto partire anche una sua rubrica su Il Foglio, giornale romano, che si chiama Tonici e cordiali, liquori per il giro. E la giornata di oggi era dedicata al vermut, alla carpano e alla storia dei grandi liquori di Torino. Il nostro incontro con Gino Cervi è seguito immediatamente da una testimonianza audio che ci ha mandato un altro grande scrittore, un altro grande tifoso del Torino, che ci ha raccontato la tragedia di Superga legata al Giro d'Italia, ed è Marco Ballestracci. Ciao Gino, cosa fai al Giro d'Italia? Sono venuto non per il Giro, ma per salutare gli amici Granata che oggi celebravano il loro 75esimo. No, non è vero, sono salito a Superga per vedere il passaggio, però sono anche andato alla Basilica, quindi c'era, e sono salito su una navetta piena di tifosi granate, e ho pensato che sarebbe stato molto peggio se fossero stati tutti juventini, quindi questo è un saluto ai nostri ascoltatori juventini. Sì, ma con simpatia. Com'era la situazione a Granata? A Superga, in questa giornata comunque strana, perché è una giornata tradizionale per i Granata, è una giornata di dolore anche, chiaramente, si ricorda una tragedia, eppure si è trovata a incrociarsi con una festa come il Giro d'Italia. Non tutti l'hanno presa bene tra i tifosi del Toro. Ma in realtà c'era molta commistione. Io ho visto tantissimi ciclisti alla Basilica con le bici, e ho visto tantissimi tifosi, maglie granata, sciarpe granata, alla curva del passaggio del Gran Premio della Montagna. Quindi c'era molta osmosi e anche molta voglia di mischiare le cose una volta tanto. Poi vabbè, sì, Torino, e mi viene da pensare che ci sia questo filo rosso un po' da tremendismo di lutti, perché oltre a Superga noi siamo a veramente a pochi centinaia di metri dal posto dove cadde Serse Coppi, e vita e morte, felicità e lutti si mischiano nello sport, ma nel ciclismo forse un po' di più, però non sottolineiamo troppo questi aspetti, visto che oggi è il primo giorno di giro e il giro è una festa. Però dicevi un filo rosso, secondo me se al rosa aggiungi il rosso fai il Granata, forse abbastanza, sì, cioè c'è questa radice comune. Dovremmo chiedere ai nostri armocromisti del podcast. Chi sono gli armocromisti? Pelacci. Beppe Pelacci potrebbe diventare l'armocromista del podcast, glielo proporremo. No dai, sono contento, poi quest'anno siete pure in quattro, e io ritornerò, non so quando, ma incrocerò di nuovo. È buona strada, mi sembra un bel viatico partire da... Oggi è una giornata curiosa con tante nuvole grasse che giravano per il cielo di Torino, da Superga si vedevano sì e no le montagne, ma una bella ouverture mi sembra. Poi tecnicamente, lo dite meglio voi di me, ma mi è sembrato anche una bella corsa. Bellissimo, grazie mille Gino, ci rivediamo presto. Grazie a voi e buona strada e un abbraccio a tutti. Se mi dicessero, Marco, devi lasciare il tuo paese in Veneto e devi andare ad abitare in una grande città, io sceglierei senza dubbio Torino. Io amo Torino tantissimo, ci sono state tantissime volte per via di libri, per via di spettacoli, amo San Salvario, amo il lungo Po del Valentino, amo la collina dei Cappuccini, amo un sacco di cose, amo Piazza Vittorio, Piazza Castello, via Po, la Mole, le Porte Palatine, il mercato di Porta Palazzo, insomma amo Torino, ma la cosa che meglio identifica Torino è senza dubbio ciò che si vede quando si sta avvicinando a Torino in treno, soprattutto ancora prima della stazione di Torino Stura, compare là in alto sopra la collina un luogo che è fondamentale, la cui leggenda passa di padre in figlio, ed è naturalmente la Basilica di Superga, ma non passa di padre in figlio perché è un grande progetto architettonico di Juvarra, no, passa di padre in figlio perché lì, come tutti sanno, è finita un'epopea. Sul fianco della collina di Superga, il 4 maggio 1949, è finita l'epopea del Grande Torino, che era un'epopea importante perché tre grandi cose erano... dei momenti che tenevano in alto il morale degli italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed erano Gino Bartali, Fausto Coppi e ovviamente il Grande Torino. È difficile immaginare cosa sia capitato in Italia quando pian pianino la notizia cominciò a trapelare che nel tardo pomeriggio di quel giorno di bruttissimo tempo l'epopea dei ragazzi era terminata. È difficile immaginarlo, non riusciamo a tornare indietro nel tempo per capire quale fosse stato il sentimento quando la notizia appunto uscì pian pianino da quel iniziale sentito dire. Di certo il 1949 fu un anno importante per lo sport italiano, tutti lo sanno, fu il primo anno in cui un corridore vinse nello stesso anno il Giro e Tour. Fausto Coppi li vinse e soprattutto fece quella grandissima impresa solitaria durante quella che viene ancora considerata la tappa più importante della storia del ciclismo, la Cuneo-Pinerolo del 10 giugno 1949, quando fece in completa solitudine, non si sa ancora se 192 o 194 km di fuga. Esistono ancora persone che guardano i fotogrammi della tappa, appunto dei reportage fotografici, per capire esattamente il luogo in cui Fausto Coppi abbandonò Primo Volpi e iniziò la sua grande corsa solitaria. Poi naturalmente c'era Gino Bartali, se Fausto Coppi vinse il Giro d'Italia e il Tour de France, Gino Bartali fu secondo sia al Giro d'Italia che al Tour de France. Quindi un anno meraviglioso per lo sport italiano. Tuttavia non sappiamo quanto su quell'anno meraviglioso abbia influito la sciagura di Superga. Di certo non tutto fu così trionfale, perché alle spalle di Fausto Coppi e di Gino Bartali inevitabilmente correva questa grande mancanza, questa grande epopea che era terminata, che è quella del Grande Torino. E ancora oggi, quando si guarda Superga, inevitabilmente si pensa a quella cosa. Non me ne voglia Juvarra, ma la collina di Superga è soprattutto la collina del Grande Torino, di Bacigalupo, Ballarì, Maroso, Castigliano, Rigamonti, Grezzar, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola ed Ossola. Ma che belle persone che si incontrano e si sentono al Giro d'Italia. Ci tengo a specificare che poi Balestracci mi ha riscritto per ricordarmi che la formazione del Grande Torino, lui l'ha citata a memoria, non è andato a leggerla sui siti dell'internet. Non avevo dubbi, ne approfitto della voce di Marco Balestracci per ricordare un mito del nostro ciclismo, che è Imerio Massignan, che ci ha lasciato questa notte. Il più bel ritratto di Imerio Massignan lo ha scritto Marco Balestracci, verrà ripubblicato quest'estate ed è anche un consiglio di lettura, ma soprattutto ci teniamo a ricordare un grande campione. Rimanendo in tema di cultura, campioni, letteratura, torniamo a parlare di Francia, perché oggi abbiamo parlato poco di francesi e Marta cominciava a preoccuparsi, e uno degli incontri di questa mattina è stato un'intervista con quello che noi chiamavamo prima di stamattina Benjamin Thomas, ma che lui ha specificato e chiarito essere Benjamin Thomas. Ora non so se l'ha detto per noi, per facilitarci. Secondo me perché l'intervista era in italiano. E quindi lui ha se detto se fosse in francese avrei detto Benjamin Thomas. Io avrei preferito a quel punto Beniamino Tommaso, ma forse uno pensava fossero dei nomi di pelacci. Che potevano esserlo. Benjamin Thomas, che vive in Italia dal 2017, si è trasferito sul Lago di Garda, prima frequentava Montichiari perché c'è un velodromo, continua a frequentarla perché lui è un pistard, nasce pistard e ha nella pista il suo grande obiettivo alle Olimpiadi di Parigi quest'estate, però è al Giro d'Italia e abbiamo chiacchierato con lui del suo italiano, del suo vivere in Italia e di tante altre cose che riguardano il nostro paese e il suo andare in bicicletta. Il Giro d'Italia è la tua corsa di casa, si può dire ormai. Sì, sì, però stranamente è solo mio secondo giro e a dire il vero non ho un buon ricordo del mio primo giro, che era nel 2020 e ho abbandonato la quinta tappa perché ero ammalato, quindi, ma mi piace sempre correre in Italia e spero che questo giro vada meglio, e comunque mi piace sì correre sempre in Italia, ho fatto parecchie volte la Tirreno, la Sanremo e mi piace sempre. Qual è la cosa più bella dell'Italia di cui non puoi più fare a meno adesso? Il cibo, ovviamente, quello è una cosa che mi piace, è difficile a volte tornare sulle gare, in certi hotel trovare la pasta stracotta, queste cose qua, adesso sono diventato anche un po' difficile sul cibo, ma sì, quando torno a casa mi piace apprezzare quello e anche il ritmo di vita, e comunque il tempo sul Lago di Garda è qualcosa di speciale, anche d'inverno raramente mi prendo la pioggia o il freddo, e quello è una cosa che fa fa piacere per un corridore. Tu cucini? Sì, sì, sì. Il tuo piatto migliore? Ma non ho un piatto speciale, però faccio dei risotti, la pasta, mi piace anche cucinare la carne e mi piace tutto, sì, anche i dolci. Martina cosa ti chiede di cucinare quando siete a casa insieme? Ma io sì, cucino risotto, ma da quando abbiamo preso il bimbi non cuciniamo più, cioè fa tutto il robottino, quindi no. Il risotto col bimbi però non è tanto italiano, devo essere sincero. No, niente, cioè è diverso quando mangi un bel risotto che quello al bimbi, ma sì, mi piace cucinare anche i dolci, ma è vero che ultimamente devo dire che non ho tanto tempo e la lascio spesso cucinare. Senti, c'è una cosa che ancora non hai capito dell'Italia o degli italiani? Tu non sei italiano in che cosa? Che ti manca? Lasciami pensare. Magari il caffè. Ancora, quando sono arrivato in Italia non avevo mai bevuto un caffè in vita mia. E adesso inizio a berlo, però non riesco senza zucchero. Ah, ok. Questa è una cosa che faccio ancora fatica. No, però per il resto mi sono parecchio abituato all'Italia. Senti, tu in bicicletta fai tante cose diverse. La pista, sei un cronoman, sei forte in discesa, prepari le volate. Qual è tra tutte la cosa che ti diverte ancora di più? Sono le fughe. Mi piace andare in fuga, giocare proprio con il gruppo, provarci di sconfiggere le squadre dei velocisti, e quello non mi è capitato tante volte, ci ho provato anche sul Tour de France, su grandi gare, però è una cosa che mi piace più che aiutare i compagni, è una cosa che mi piace, però giocarmi le fughe è la mia cosa preferita su strada. Come si fa ad andare in discesa come vai tu? Ma bisogna non pensarci troppo ai rischi che prendiamo, comunque tutto il gruppo adesso sta andando forte e sì, bisogna sempre essere consapevole dei rischi, prendere un po' di anticipo sulle le curve pericolose, perché sbagliare una curva ti può far perdere 20-30 posizioni e invece puoi rimontare un po' più, magari puoi rimontare dopo quando è più tranquillo. I ciclisti francesi spesso, molti tuoi colleghi, sono un po', come dire, intellettuali, scrivono, leggono, dicono delle cose filosofiche, sì, anche sì, nella tua squadra. Tu hai questa, anche tu questa tendenza, è una cosa francese o essendo ormai italiano sei diverso? No, non sono tanto così, poi un compagno, Guillaume Martin, che lui è pure appassionato di filosofia, io no, mi piace, però non è una mia grande passione, leggo poco. Ma penso che sì, è un modo anche di pensare ad altro che il ciclismo e di anche avere una visione diversa del nostro sport che apprezzo, non sono un grande appassionato come loro, ma condivido la loro. Che fai tu nel tempo libero? Io, mi piace più ascoltare la musica o queste cose qua, anche musica italiana mi piace. Sì. Che ascolti? Di tutto, dai Maneskin ai rap, vabbè, musiche italiane classiche vecchie, non tanto, cioè Vasco Rossi o prima Toto Cutugno. Toto Cutugno? Ma Guepi, Club Dogo, che era Marti una appassionata di questi, quindi quando io ho iniziato ad ascoltare questi, sono andati ai concerti di Mara, di Gue. No, mi piacciono, poi io amo i Maneskin anche, che è una banda che mi piace la loro musica. Sei stato a un concerto? No, mai, poi loro viaggiano tutto il mondo, è difficile trovare una data. Beh, che tu viaggi in tutto il mondo. Sì, però è difficile andare a un concerto un giorno prima della gara. Ma li canti sotto la doccia? No, non sono un cantante sotto la doccia, no. Senti, la tappa di San Francesco parte da un velodromo. Sì, che dove ho corso, sì. Ma attacchi lì, subito. No, non dico dove attacco, mi tengo i miei piani per me. Grazie. Ciao. Michele, hai visto che Thomas va ai concerti di cantanti italiani, pur non essendo italiano, tu nemmeno sei mai stato a un concerto. No, beato lui, cioè, se lo fa felice, volentieri, io non... We don't do that here. Non... In italiano o in francese? Non facciamo queste cose qui, non... in francese come si dice? Leonardo, come si dice? Marta, il francese chiedi a me. Noi non facciamo queste cose qui. Comunque stai sul giapponese, effettivamente, Pelacci, quest'anno. Però colgo l'aggancio dell'intervista a Thomas sul velodromo da cui partiamo domani, la tappa numero 2 del Giro da San Francesco al Campo, appunto per farci introdurre la tappa di domani, come al solito, è una bella consuetudine, dal nostro pozzo di scienza, Domenico Pozzovivo, a cui mandiamo preventivamente un abbraccio e un in bocca al lupo di ripresa dopo la caduta di oggi. La seconda tappa del Giro d'Italia 2024 parte dal velodromo di San Francesco al Campo, un punto di riferimento per l'attività su pista del Piemonte, e per i primi 94 km risulta praticamente interamente pianeggiante. Si attraversa prima il Basso Canavese, poi ci si dirige verso est nella pianura vercellese, immersi un po' anche nella tipicità di quella zona pianeggiante che sono le risaie. Si risale poi verso Cossato e finalmente, dopo 94 km abbastanza noiosi di pianura, iniziano invece gli ultimi 65 km abbondanti, con una successione di 4 salite non particolarmente difficili, ma con difficoltà crescente, fino all'approccio molto veloce in discesa non particolarmente pendente verso Biella, che verrà attraversata diciamo anche nella sua parte centrale, caratterizzata da una pavimentazione in blocchi di San Pietrini, e da lì inizierà poi la scalata di 11 km al Santuario d'Europa. È una scalata che tra l'altro io conosco forse meglio di tutti, perché l'ho affrontata già una volta quale cronoscalata al Giro d'Italia e 2 volte come arrivo di tappa normale, quindi sarà la mia quarta volta al Giro d'Italia a Santuario d'Europa. Ho anche dei ricordi abbastanza buoni, perché soprattutto nel 2017, nel 2014 cercai di attaccare, pur essendoci la fuga davanti, io e Quintana riusciamo a fare un po' la differenza sugli altri. Per quanto riguarda le note tecniche, a parte la parte pianeggiante iniziale, gli ultimi 67 km comunque sono molto tortuosi, anche se su strade non troppo ristrette, si snodano un po' sulla, sono un po' le prealpi biellesi che portano poi alla, diciamo tramite valli molto strette glaciali verso delle cime anche importanti. Allora, adesso tocca a noi, però, anzi a voi prima, sulla tappa di domani, un pronostico. Come sapete, ribadisco la regola, non si può pronosticare Tadej Pogačar nei pronostici degli arrivi parziali. Quindi ti dirò un corridore, secondo me, particolarmente adatto, Alexei Lutsenko, dato benino oggi. Valida, validissima la regola che non si può dire Tadej Pogačar. Io notavo che comunque sto andando benissimo con i pronostici, anche Hermans, che avevo detto ieri, è arrivato sesto. E domani dico il settimo di oggi, Mauri Van Sevenant. Io invece penso che domani qualcuno prenderà tutto che il conostro, ma non si può dire, per cui io continuo con Geraint Thomas. Geraint Thomas, domani tu potresti vedere, anzi senza potresti, lo vedrai da bordo strada, perché ti mandiamo in gita premio. Domani vuoi, certo, annunciare tu stessa cosa ma farai certamente, domani? Certamente, perché qualcuno ha saputo che a questo giro c'è una vera esperta. Quindi la Eau Desert Decathlon ha fatto carte false per avermi... Tarocchi falsi. Tarocchi falsi per avermi sul loro pulmino VIP. Quindi sarai in corsa con la Decathlon, ci racconterai tutto domani. Io non ho fatto il mio pronostico, che è Damiano Caruso. Damiano Caruso, oggi bello pimpante nella tappa di Torino. Sarebbe molto bello. Della tappa di domani ne parleremo nella puntata di domani. Ci seguirete come sempre sui social, sulle newsletter, su dove altro ci potranno seguire tutti. Per esempio su... è un'ottima domanda. No, hai detto tu tutti, hai detto Telegram, tu, fini Telegram. Grazie. Sui nostri profili Instagram, sui profili Instagram di Al Vento, di Bidon... Ti vedo profilo Instagram di Ben O'Connor, che ci sono i gatti, se volete. Per esempio, comunque Pelacci, ti vedo poco reattivo quest'oggi, non so cosa ti è successo. No, niente, direi, sto... facciamo così, come sì. Si dice bicicletta in giapponese? Deja. Per questo sto passando... Sembra portoghese, comunque. Sto passando le ore su Duolingo, Filippo, sono fritto. Ah, quindi ti sei già preparato? Sì, ormai sono prontissimo. Perché oggi sai che è stata una tappa che comunque è stato un finale che ci ha sorpreso, no? Sì, fico poi, sì. Per cui sentiamo la parola del giorno. La parola del giorno. 今日の 一言. Sorpresa. 突然に驚き。 Il sensei oggi è stato magnanimo, ti ha dato due possibilità. Ci sono due termini per dire sorpresa, basta che ne impari uno. Io penso che la cosa più simile che può uscire dalla mia bocca è Modenji Okoroki. No, non lo so, sembra più simile, forse è una parola africana, non lo so. credo che ci sarà molto da lavorare sul tuo giapponese. Peracci sta studiando in Erasmus a Lisbona, credo. Io voglio spezzare una lancia nei suoi confronti, ci ha provato. Oggi, come Pogačar, ha un po' vinto e un po' perso. Ha perso la tappa, però ha fatto vedere che c'è. Cioè, esatto, insomma. Ma poi pensate che Odoroki, quando Pelacci saprà il giapponese, ci sorprenderà tutti. Noi nel frattempo ringraziamo i nostri amici di Shimano che ci hanno sostenuto anche nell'idea di avere questa rubrica grazie ai loro canali giapponesi. Ma scusami, voglio chiedere una cosa. Sorpresa era un riferimento a quello che è successo oggi al giro, quindi c'è, certo, anche un aggancio alla realtà. Non il sensei è un po' mica... per chi l'hai preso, sensei. Chiedo bene. Certo che nulla è lasciato al caso. E grazie appunto a Shimano che ci ha messo in contatto con il sensei, possiamo seguire tutto quello che succede anche in giapponese. Quindi, come si dice sorpresa in giapponese? Mudengi Okoroki. Ma erano due parole diverse, Pelacci, va bene. Poi cambiano ogni volta che le dici. Sono sempre diverse. Direi che con questa forse, non so, abbiamo altro da aggiungere in questa puntata che veleggia verso le 8 ore. E in queste 8 ore e 1 minuto io devo assolutamente mandare un saluto e mille congratulazioni a due persone che hanno raggiunto le tappe del cuore più importanti oggi, quindi ai miei amici Francesca e Dario che si sono sposati e mi hanno anche lasciato venire qua. Con questo abbiamo finito, vediamo appuntamento domani, perché il Giro d'Italia non è finito. Noi pensavamo che potesse finire al primo giorno, è quasi finito, ma non è ancora finito, quindi noi domani ci saremo e vediamo appuntamento alla terza, seconda, anzi puntata di Gironimo. Ciao!